Raspberazza Mixtape volume 2. Ehi yo yo yo, sempre io. Un altro anno se ne va, sempre io, sempre delirio. Vuoi la verità? Vuoi la verità? E senti qua va. Mi hanno detto Del, come mai non vai a Sanremo? O sei scemo, pure questa merda non vende. Oppure non c'ho tempo di stare a pressa gente che a parte testa e gambe beh non muovo un bel niente. Mi chiedi chi è delirio, rispondo senza taglie. La pressione del sogno di un bimbo di 13 anni che certo sono cresciuto, ma solo con l'età. Perché ancora inseguo sogni che sposino la realtà. E tu sapessi quante volte mi hanno giudicato. Scrivi pezzi sulla droga e qua ti danno per drogato. Ho imparato la lezione e danno tutto per scontato. E per credere in ciò che voglio a me basterebbe un foglio. Vivo con orgoglio, è quello che mi resta. Per almeno io cammino e non abbasso la testa. Vorresti vedermi a terra, che pensi che non lo so, che critichi ciò che scrivo. Mentre io vaffanculo vivo, sempre vero, sempre sincero, che punta a lasciare il segno sapendo sia un passeggero. Nel tuo cuore, nel tuo amore, in questo posto buio. Tanto pure dentro un muro non mi sento più sicuro. Sarà l'età, ho voglia di divertirmi senza dover pensare a dei bambini da campare. Che tanto per come sto, se non ci campo il cane. Se mi cerchi per i soldi è meglio se mi lasci stare. Che tanto io all'amore non ci ho mai creduto. Qualche storia ce l'ho, ma niente che abbia vissuto veramente. Ho visto amici starci male per poi finire sulle panche a fare storie inutilmente. Col tempo passa e te ne fischi. Se devo perdere tempo preferisco con i dischi. E forse c'è ragione, non avrò un vero sorriso. Per almeno degli anni avrò qualcosa per inciso. E che resti, e che resti per sempre, senza speranza mixtape. Questa musica resta per sempre, al contrario di certa gente. Ho finito bro, blocca sta traccia, senza speranza mixtape. Tutto quello che c'avevo da dire l'ho detto in faccia.